L'onda del rock. Ed eccoci qua, benvenuti in frequenza, questa è Blu Radio Veneto, io sono Flavio Bilato, assieme a me c'è Maurizio Calzavara, oggi è mercoledì 2 maggio del 2012 e abbiamo cominciato il maggio con gli appuntamenti live anche questa sera. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, in questa serata cosa possiamo proporre al nostro pubblico? Chi ci è venuto a trovare? Assolutamente il rock. Assolutamente il rock. E poi il resto. Rock e derivati, possiamo dire, sì, così, ragazzi. Possiamo dire assolutamente rock e derivati, lo comprenderemo all'interno della trasmissione proponendo completamente il nuovo lavoro di chi ci è venuto a trovare, ovvero i Karenina. Buonasera ragazzi e benvenuti in frequenza. Buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, noi ci eravamo già visti da qualche parte, ci eravamo già sentiti, avevamo già avuto modo di parlare della vostra musica, ma vi siete trasformati. Ovvero, Karenina, cosa è successo? Innanzitutto diamo il buonasera a Francesco, Ottavia e Giuseppe. Buonasera. Buonasera. Manca l'appello a qualcuno? Di solito siete in cinque, no? È giusto non ricordarlo perché è un bidone, no? ha i suoi belli impegni, no? Sì. Un saluto Enrico, il nostro batterista, che ci starà sicuramente ascoltando. Lo sostituisci te stasera praticamente. Sì, l'importante è non farsi sentire. Esattamente. E quindi stiamo cercando di camuffare alla grande. Beh, quindi Giuseppe, il primo ad intervenire, è chi abitualmente suona la chitarra, però in questa serata si dedica alle percussioni che abbiamo qui dal vivo. Facciamole sentire, Giuseppe. Oh, ecco qua, tanto per garantire che fantastico. I suoni live sono assolutamente puri. Grazie. E allora, Karenina, si parte dal passato, ancora prima dell'esordio con questo disco che si intitola Il futuro che ricordavo, parliamo un po' del passato che vi vede protagonisti come triste colore rosa. Come mai c'è stata questa variazione, questa trasformazione, diciamo? Allora, trasformazione è la parola giusta, e come ogni trasformazione che si rispetta deve esserci un cambiamento anche dal punto di vista della percezione che noi diamo, sia a livello musicale, sia a livello di immagine, sia a livello di nome. Quindi abbiamo deciso di ribattezzarci per questo nuovo corso e abbiamo scelto il nome Karenina, che comunque fa riferimento al nostro vecchio album, oltre che delle istanze letterarie legate alla letteratura russa. Ricordo che c'era qualcosa di questo senso, in particolare appunto in questa situazione dove c'è Karenina, e voi riportate il cognome di Anna Karenina, che nella San Pietroburgo del 1600 aveva dato, come dire, non un messaggio positivo alla Russia di quel tempo, no? Era un po'... Però un messaggio positivo alla società, diciamo così... Alla società che è venuta dopo, esatto. Nel trasformismo globale. Esatto. E quindi anche Karenina ha un trasformismo globale da quello che era triste colore rosa per, come definiva qualcuno, la trasformazione dal bruco alla farfalla in questo caso, o la crisalide che diventa poi farfalla, si trasforma e ricomincia a volare. Allora, il futuro che ricordavo, il titolo del disco dice qualcosa verso l'oltre e qualcosa invece dove si torna indietro. Esatto, che in questo caso si trovano tutti nello stesso punto, insomma due punti agli antipodi che si incontrano per creare una sorta di cortocircuito, no? Quindi un passato che in realtà assomiglia sempre di più a un futuro, è un futuro che in realtà ci ricorda sempre qualcosa, e quindi un futuro che ricordavo, insomma volevamo giocare su questa ambiguità temporale, è saltata fuori in diversi testi del disco e il titolo ne rispecchia un po' la natura, insomma. E anche dal punto di vista musicale avete scritto in un'intervista che c'è stato un grande cambiamento di modo di fare, di far musica rispetto a Triste Colore Rosa. Qual è stato il cambiamento praticamente? Beh, essenzialmente c'è stata una diversa modalità di composizione che ha fatto sì che anche i brani nascessero e si sviluppassero in maniera differente. Con i Triste Colore Rosa vivevamo una situazione un po' particolare, diciamo così, transitoria, una formazione nuova, lavorare su dei pezzi già esistenti, riarrangiandoli e quindi avendo un humus da far germogliare. Qua invece abbiamo dovuto farci anche la terra, nel senso, cioè tutto che, nuovo, esatto, praticamente tutto nuovo. Tutto da zero. E si sente. Certo, si sente. Bene, allora facciamolo sentire anche ai nostri ascoltatori, visto che poi si può parlare liberamente di musica, però ascoltandone prima la parte essenziale, quindi il suono che arriva a presentare la prima canzone che proponiamo per far conoscere appieno il suono di Karenina. Rockwave, l'onda del rock. Conta stare qui, perché non esserci sarebbe uguale, per riposar le palpebre, per non dovermele più asciugare, per tutto quello che poteva starci ma non c'è, io devo scomparire, contare fino a 10 poi sparire. Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. E ci siamo ascoltati il primo pezzo per presentare quello che è la sonorità dei Karenina, però senza qualche inganno, nel senso che più tardi scopriremo le altre sonorità del disco. E già con Maurizio stiamo un attimino sorridendo, perché non stiamo parlando di un pop rock, diciamo, normale. No, vogliamo anche considerarlo un po' sperimentale, sì. un po' avanti, diciamo. Sì, un po' avanti, decisamente, possiamo dire anche psichedelico, tra virgolette, in alcuni momenti, un po' nell'aria, cosa dici? Pop sperimentale è una bellissima definizione. Perfetto, pop sperimentale. Benissimo, un pop sperimentale. Allora, questo disco per presentare le prime caratteristiche dei Karenina e soprattutto per sponsorizzare un attimino la presenza di un video su internet, su YouTube, che fa vedere la vostra produzione anche in versione video, diretta da un certo Malosso. Da un certo Malosso. da lui e dalla sua cricca di amici, la Kaspar Hauser Produzioni, sì, che sì, ha fatto sì. un grandissimo lavoro, anche perché in quel video abbiamo avuto dei problemi con gli attori, perché eravamo noi. Un'altra cosa, ecco, mi dovete spiegare, c'è stata questa evoluzione nel presentare due video in contemporanea, che parlano di due storie che poi diventano un'unica storia, seppur sempre nella divisione. Esatto, è il gioco classicissimo dello split screen che abbiamo voluto proprio sfruttare al 100% per creare questa doppia storia, che in realtà è una storia sola. Era un gioco sia visivo che narrativo che ci interessava sfruttare, infatti tutto si gioca su quel tipo di trucco. E parlando di questo pezzo, che non abbiamo ancora detto che pezzo era. Abbiamo colore. Detto che era colore. Ecco, perfetto, perfetto. Lo ribadiamo che era quello era il singolo praticamente. Sì. E a me interessava sapere, mentre il pezzo andava, parlavo col batterista aggiunto di stasera praticamente. Non è il batterista aggiunto, cioè cerca di fare il batterista. Enrico cerca di fare il batterista. Dai, complimento. Senso positivo, senso sì, positivo. Certo. Io mi sforzo. Tu devi sforzo. Premiamo l'impegno. Dai. No, parlavamo di Enrico, che adesso non è presente e ci sente, e la difficoltà che ha avuto a fare un pezzo simile, molto sincopato, questo stop and go continuo. Adesso mi parli un momento di la genesi del pezzo, e poi tu parlavi anche del produttore, che è molto importante. Sì, no, allora, questo pezzo è partito con uno sviluppo che appunto seguiva le nuove linee di composizione che Francesco sì, ha spiegato prima, dopodiché certo. è evoluto grazie anche alle piccole sciccherie però utili inserite e decise da Paolo Pischedda, che è lì dei Marta sui tubi, esatto, praticamente, che è stato ed è tuttora il nostro produttore artistico. E appunto la cosa simpatica è che Enrico, che è un bravissimo batterista, che già si ha tirato fuori dei giri veramente speciali per questo pezzo, si è trovato a fare una fatica boia per riuscire a concretizzare anche tutti quei giri che voi sentite, ma che sono cioè sono più batterie campionate con la batteria sotto. Beh, dal vivo lui riesce a fare anche questo, a rendere comunque l'idea, la struttura di questo brano, quindi il suo sforzo è fondamentale, è riuscitissimo. E quindi sì, la genesi di questo pezzo viene ricordata soprattutto per gli sforzi iniziali di Enrico, che con simpatia ma con determinazione poi l'hanno portato a realizzarlo. E poi il discorso di ottave, la nota di piano che dicevo, ma mio microfono spento, proprio ti entrava dentro, fosse un coltello nel senso chiaramente musicale del termine, che ti entrava immediatamente. Diciamo che io col pianoforte invece seguo dei ritmi regolarissimi in questo pezzo, perché batto principalmente i quarti. Sì, principalmente solo i quarti essenzialmente, e questo fa sì che la batteria di Enrico appunto abbia ancora più ritmicità all'interno di questo brano, che in realtà col fraseggio iniziale di piano sembra molto scandito, molto, sì, molto dritto, insomma. Esattamente, esattamente, proprio così. Adesso abbiamo modo anche di sentire i Karenina dal vivo, così sentiamo ancora di più il piano che entra nelle orecchie dei nostri ascoltatori. E quindi adesso scegliamo di far ascoltare i nostri ascoltatori un brano che assolutamente da disco rende benissimo, ma sono convinto che in studio qui live funziona da Dio, veramente. Allora, Le macchine da scrivere, si intitola così la canzone? Si intitola così, Le macchine. Allora da ce l'ascoltiamo. Che cosa c'è nel buio soffice di pochi attimi privi di immagini? Dimmi se è proprio lì che nasce tutto quello che accende, illumina le macchine da scrivere. Che mondo c'è dietro alle palpebre, quando decidono di chiudersi e sbattere. Confermalo anche tu, non è reale ma è vero, non lo nascondo più, è da una vita che io credo. I Karenina sono con noi all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, si chiama Rock Wave, questo spazio, una dimensione live, loro sono i protagonisti. Il disco che stiamo presentando si intitola Il futuro che ricordavo e questa è la canzone Il giorno più bello, ascoltata live qui dai nostri studi di Blu Radio Veneto per l'appunto. Un pezzo molto bello, molto, molto interessante, molto significativo, dal vivo, cioè avete dato una dimensione, chiaramente dal disco era una certa dimensione, dal vivo l'avete, mancava qualche strumento e l'avete sostituito con la vostra, col vostro modo di interpretare live, acustico, assolutamente acustico. Un complimento al batterista, bravo, è stato bravissimo che ha sostituito benissimo Enrico, si è dato veramente da fare. Altre cose, mancava la macchina da scrivere. Eh sì, quella mancava, in quel caso lì, quella macchina tradizionale con tanto di cestello, tipo lavatrice, dal quale vengono proiettati i vari tasti, i vari caratteri sul rullo con la carta e viene scritto il nome Karenina in questo caso. Beh, mancava anche il bellissimo violoncello. Eh sì, di Mattia Boni. Esattamente, questo è fondamentale. Sì. Fondamentale. Mattia, che tra le altre cose è uno di Marte sui tubi. Esattamente. Come c'è stato questo come dire, collaborazione con Marte sui tubi? I Marte sui tubi li conosciamo da diverso tempo, abbiamo avuto occasione di conoscerli proprio perché aprivamo spesso i loro concerti. E quindi è stato naturale nel momento in cui stavano cercando un produttore chiedere per esempio a Paolo, che oltre che è un pianista è anche un fonico, quindi incorpora questa doppia dimensione importante, quella del musicista e quella del produttore fonico. Certo. E Mattia ci ha regalato un po' di violoncelli. Il violoncello è uno strumento che ha una determinata charme, un determinato gusto, un determinato modo di suonare. Io lo definisco un po' dark, non è il vostro caso, però il violoncello è dark assolutamente, lo usano spesso e volentieri ed è molto significativo, dà un certo spesso, un certo colore, tanto per citare il pezzo precedente, un certo colore al pezzo, cosa dite? Sì, poi Mattia dà veramente molta espressione ad ogni nota, sembra che ogni nota davvero riesca, riesca da tutto se stesso, quindi... È una cosa che ho notato, tutti i critici sono stati entusiasti di questo pezzo. Questo pezzo ha forato tutte le critiche discografiche che ho letto da parte. E qui vuol dire che un pezzo non è un pezzo semplice, è un pezzo difficile, anche dal punto di vista musicale, però ha entusiasmato tutti, è una cosa molto positiva secondo me. Ma si diceva nelle critiche che erano assolutamente entusiasti di quella che era l'ultima produzione, erano un po' così sul dire, ma come mai questo gruppo cambia spesso nome? Probabilmente esatto. perché più che un nome il gruppo ha in mente un progetto, loro oserei dire io, no? Quindi ogni progetto si chiama con un nome, portando avanti il nome di Triste Colore Rosa piuttosto che Karenina, il vostro nome attuale, identifica più che un gruppo musicale un progetto in cui vi volete lanciare per la musica, rimanendo comunque compatti come gruppo. Beh, promettiamo che il prossimo disco sarà ancora nome Karenina. Karenina, esattamente. ma da un certo, come, cambiando da sempre feeling, da sempre voglia di fare diversamente, quindi da certe emozioni continue, quindi è già positivo il cambiare, secondo me. Ma infatti dal punto di vista musicale, uno dei nostri obiettivi è proprio il cambiamento, non fine a se stesso ovviamente, al fine di migliorarsi e di magari percorrere un cambiamento mirato, insomma. Esatto, cercare di sperimentare sempre di più, però il nome mi sa che questo ce lo teniamo. Benissimo, benissimo. Bene, allora abbiamo scelto il nome Karenina, tra le altre cose, allora il futuro che ricordavo, abbiamo già commentato quello che è il titolo del vostro album, tra l'altra cosa un album che si presenta anche molto bene, molto compatto, una copertina che riporta anche quelli che sono i testi, tanto per farli seguire meglio all'ascoltatore che in certe situazioni viene preso più d'impatto dalla musica, quindi si perde nel primo passaggio quella che è la vostra dimensione dei testi. Sarebbe un peccato, nel senso... I testi è una cosa che secondo noi sono una componente molto importante di una canzone, perché la canzone è fatta di musica e testi, altrimenti sarebbe un pezzo strumentale, quindi sfruttare i pezzi solo dal punto di il cantato solo dal punto di vista musicale senza dare un vero significato a ciò che si dice, secondo me inficia un po' quello che è nel complesso il lavoro di composizione di una canzone. Noi cerchiamo di curarli il meglio possibile, in modo tale che siano anche un qualcosa che dia un valore aggiunto al brano, non soltanto delle parole che servono per essere cantate, insomma. Quindi li abbiamo scritti sul libretto proprio perché ci piace che vengano letti e seguiti oltre che ascoltati, insomma. Assolutamente in italiano, cantati in italiano, scritti in italiano, e l'avete ribadito recentemente in un'intervista e continuate a ribadirlo giustamente. Beh, mi sembra giusto che degli italiani che fanno musica in Italia utilizzino la propria lingua. Questo è vero. Anche perché l'italiano è una lingua bellissima. Però qualcuno dice, nel senso anche positivo, l'inglese è più facile da cantare. È vero. È anche da comporre, è più facile. Se lo sai anche parlare. Se lo sai parlare, chiaramente. Però è più facile, è più musicale, come ci riesce più semplice, insomma, praticamente. Capita. Molti gruppi hanno questa è la ragione per cui cantano in inglese. È vero, però l'uso dell'italiano per chi lo usa è anche una sfida intrigantissima. Certo, perché la gente recepisce immediatamente quello che dici. Sì, bene. E poi anche per proprio è vero, è più difficile far incastonare le parole italiane all'interno di un contesto pop rock. Però secondo me se si riesce a trovare la formula giusta o le formule giuste, il brano ha qualcosa in più. Bene, allora vediamo come siete riusciti ad incastonare le parole anche all'interno di quella che è la vostra canzone che ascoltiamo da disco, che si intitola Il giorno più bello, e poi torniamo a commentarla insieme. Rock Wave, l'onda del rock. Oh, Ma il giorno più bello fu quello nel quale la grandine prese a cadere su tutte le case piantine comprese e il profumo che si liberava dal loro morire andava riempiendomi il naso e la bocca. Del rock. La canzone si intitola Il giorno più bello. Loro sono i Karenina, sono venuti a trovarci per presentarci il loro ultimo lavoro, si intitola Il futuro che ricordavo. E allora questo giorno più bello che inizia raccontando forse la storia di uno che ama il giardino, l'orto, il pollice verde, e sta sistemando le sue belle piantine di menta. A un certo punto arriva la grandine e rovina la festa. Si rovina la festa, ma è il, diciamo così, la strada, perché questo protagonista della canzone uso questo. Sì, si usa quello. Qua c'è uno scambio di microfoni. Abbiamo più microfoni che persone. Ne funzionasse correttamente uno. Vabbè. Vai Francesco, vai. Sì. E quindi questo evento, diciamo così, negativo porta però il protagonista della canzone a scoprire qualcosa di sé che magari dava per scontato, ma che in realtà non lo era, ed era proprio questo gioco narrativo della negatività che in realtà ti porta a scoprire qualcosa che ti permette di essere, di vivere. Quindi in questo caso il protagonista scopre, capisce, percepisce che sta respirando, quindi che sta vivendo una cosa che magari si dà per scontata, ma che alla quale invece dovremmo pensare un po' più spesso. C'è un momento quindi di introspezione che permette al personaggio di dire: sì, nonostante mi stia succedendo questo, sono vivo, sono qui, posso, esatto, cambiare qualcosa. Perché spesso noi siamo vivi solo perché ce lo ricordano. Invece dovremmo rendercene conto e agire di conseguenza. Bene, e noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche noi siamo vivi, anzi noi siamo live in questo caso, perché presentiamo la musica dei Karenina sia da disco sia nella loro versione live. Ricordiamo anche che foto di questa trasmissione saranno disponibili nel nostro sito internet, nella pagina dedicata ai Karenina, per l'appunto ci sarà la possibilità di scaricare la trasmissione così come è venuta in diretta questa sera e poi ancora di vedere i nostri bei faccioni, oserei dire, ecco, compresi quelli miei di Maurizio, che insomma non so, però, beh, tanto... il mio non è proprio un bel faccione, il tuo passeremo la sera a discutere, esattamente. E allora Karenina, per tornare alla musica dal vivo, cosa possiamo ascoltare dai vostri strumenti? Direi che c'è. Potremmo fare Il futuro che ho dimenticato. Perfetto, perfetto. Che in un album che si intitola Il futuro che ricordavo. Sì. È il pezzo che. Sarebbe stata la domanda. Può essere centrale. Sarebbe stata la domanda successiva, però l'abbiamo già svelata. Quindi Il futuro che ho dimenticato. Eccoli qua, i Karenina. Prega per me, credici forte a quel santo che fai miracoli, non piangere, lascia che piangano le statue, quelle degli altri, tanto il futuro non c'è, il futuro che ho dimenticato. Io questo pezzo l'avevo ascoltato più volte all'interno del disco, sapevo dell'effetto live con questi schiaffetti che partivano, no? queste mani, le avevo contate due volte, ma non sono stato pronto adesso a rialzare la musica, quindi ho creato un effetto di buco che comunque ha dato l'effetto alla canzone che abbiamo ascoltato. In questo caso prima c'era la storia del... di quell'ortolano molto, molto, molto tranquilla comunque. Invece qua la storia aveva una certa, diciamo, paranoicità, se vogliamo dirla, soprattutto nella musica che veniva così molto, molto forte, colpiva molto. Sì, è vero, è un po' un pezzo paranoia, se vogliamo. L'aggettivo è corretto, infatti... È un po' il pezzo che incarna di più l'ambiguità della tematica del disco, che è poi la tematica di un tempo attraverso il quale noi misuriamo la nostra vita, misuriamo tutto il nostro agire, però è una cosa che ci siamo creati noi, che forse non esiste neanche, quindi c'è questo senso di non trovarsi nel posto giusto e neanche nel momento giusto, che crea questa sorta di paranoia. Questo è un po' il futuro che ho dimenticato, il futuro che ricordavo, insomma, vale in entrambi i casi. Dal punto di vista musicale questo è il pezzo rock, assolutamente rock. Un critico giustamente ha scritto, poi c'è un mantra dentro, effettivamente c'è un mantra, c'è una cosa che ripeto, questo verso che si ripete continuazioni proprio continuamente, perché deve essere così. Esatto, sono un sacco di voci, quante voci saranno? Quanto ci avete messo a fare un pezzo simile? Allora, ci abbiamo impiegato tanto a registrare i, diciamo, i cori, perché non so, ne abbiamo perso il conto, ma credo avremmo messo almeno 8 voci, tra cui un basso basso, che è la voce di Fischetta, il nostro produttore, l'abbiamo obbligato a far questo. Cantare. No, è stato lui a voler. Anzi, lo voleva all'inizio, dopo non lo voleva più, però l'abbiamo obbligato. Bene. È stato incastrato. Quindi l'idea di questo pezzo così particolare anche musicalmente è partita da voi? Assolutamente. Poi sì, è stata modificata, è stata, non so, abbellita un po' dal produttore, però l'idea parte sempre da voi. Diciamo che poi in studio hai molta libertà, perché poi sovraincidere tantissime voci, quindi ci siamo più sbizzarriti in quel momento. Quindi dal vivo questo non finisce mai praticamente. No, no, ci fermiamo perché dopo Francesco non lo facciamo più. Okay. Però sarebbe, cioè, come si usava negli anni 60, Flavio mi insegna, sì. Chiaramente tipo i Grateful Dead, che continuava a fare 5, 6, 7 ore di concerto e pezzi lunghissimi, Dark Star, sì, per esempio. Nell'era della MP3 sarebbe sì, però certe cose sono ancora positive nonostante tutto. È vero. Sì, sì, ascoltando i Grateful Dead adesso... Ti ricordi? Sì, certo. Dark Star durava 30 minuti, quindi sì, non finiva mai. Sì, sì, poi uno restava là, forse un po' per un po' ascoltava la musica, per un po' ascoltava i consigli della gente, non sempre buoni. Ma sì, decisamente un po' particolare. Rimanevano là. Le droghe psichedeliche facevano effetto. Molto effetto. Sì. Sia sui musicisti, sia sugli ascoltatori. Esattamente. In quel caso. Comunque noi in questo caso confermiamo, non ne facciamo uso, siamo qui con la buona musica dei Karenina. Abbiamo sentito la voce di Giuseppe, di Francesco, di Ottavia. Non abbiamo sentito la voce del basso. Del bassista. Francesco. Sì. Buonasera Francesco. Buonasera. Anche a te. Allora, come ti senti? Un po' Karenina? Tanto Karenina. Tanto Karenina, nel senso che... Allora, voi siete in quattro qua e manca il quinto elemento, anzi lo salutiamo a distanza, Enrico, che abitualmente suona la batteria all'interno del gruppo. Ma l'effetto basso Karenina, come è impostato? Sentiamolo da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico diciamo che c'è... parecchia sintonia col batterista, nel senso che si cerca sempre di dargli accenti insieme, di giocare insieme nella composizione. Soprattutto in questi ritmi un po' sincopati, no? Esatto, dove c'è esatto. Una variazione improvvisa, è molto complesso andarci dietro e vivere, diciamo, in simbiosi il ritmo. Complesso, ma allo stesso tempo anche divertente. Posso dire che in questo nuovo progetto il basso ha un'importanza ancora maggiore che non nel progetto precedente. È possibile secondo te? Io la sento così, la vedo così. Diciamo che sì. Ha una funzione un po' particolare, cioè di praticare, dare determinate colorazioni ai pezzi, di accentuare in alcuni momenti, di andare oltre determinati limiti, non so. Sì, diciamo che dal punto di vista armonico... il basso in questo disco si muove di più. Esattamente, si proprio muove di quello. Più, stando anche spesso distante dalla tonica del pezzo, quindi dalla nota principale dell'accordo. Hai avuto più libertà, insomma, di vagare leggermente. È stato tutto automatico. Tutto automatico, leggermente. Sì. Non dicono niente gli altri, non dicono niente gli altri. No, si è sciolto, no, che prima era un po', invece adesso sì, no. Si è sciolto. Diciamo che l'ho fatto parlare apposta perché mi sembra che dovesse dire qualcosa anche lui in fatto di Karenina, soprattutto nella sua preparazione musicale dedicata al basso. Allora, ci ascoltiamo un altro pezzo del vostro disco, sono 10 pezzi, tutti molto molto interessanti. E quindi ci ascoltiamo, Chiara lavora in politica e poi torniamo qua a commentarla insieme. Rockway, l'onda del rock. Oh, crescere. Ho visto tutto questo 20 anni fa. Sua madre che indicava le ginocchia e diceva: ora siedi qui, ora siedi qui. Sotto di lei si alzò qualcosa di duro, cavalcò la chiave che apre al futuro. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua ancora all'interno di Rock Wave, la programmazione serale di Blu Radio Veneto. Io sono Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara, assieme a noi Karenina, che sono venuti a trovarci per Il futuro che ricordavo, così si intitola il loro ultimo lavoro, e questa canzone che è anche l'inizio dell'album, che si intitola Chiara lavora in politica. Allora, un titolo assolutamente particolare per una canzone veramente con una costruzione molteplice di quelli che sono tutti i ritmi che sono all'interno della canzone, e mette anche un po' d'ansia in certe situazioni, no? Perché si sente questa atmosfera molto molto sperimentale, che poi va verso un rock molto aggressivo in questo caso. Allora, come mai Chiara lavora in politica, ora che la politica non è poi così tanto chiara? Beh, come dicevamo fuori onda, il testo non dà adito a grandissime interpretazioni. La storia è molto diretto, è la assolutamente storia diretto. Di una scalata sociale politica, sì, sì. È basata su prestazioni non molto occasionali. Sì. Diciamo una cosa di cui l'Italia era veramente pregna fino a pochissimo tempo fa. Ruby Insegna, sì. Ruby Insegna, chiamiamole marchette, chiamiamole gare di burlesque, insomma. Sì, sì, sì. Sempre sì. Di quello si tratta. Volevamo raccontare questa storia, e volevamo farlo attraverso anche una costruzione musicale, come dicevate voi, molto, molto particolare, che racchiudesse tantissime cose, tantissima sperimentazione, per dare proprio il senso di quest'ansia, della negatività, diciamo, di questa storia. che dal punto di vista invece testuale si gioca ancora sui livelli del tempo, quindi c'è un flashback, fino ad arrivare a una sorta di presente in cui tutti i giochi sono stati fatti, insomma. È una sperimentazione quasi rumorista, e il basso poi fa un effetto effettato, questo basso tremendo che spacca tutto quanto, volutamente così, volutamente messo in quella situazione qua, perché doveva spaccare totalmente. Sì, probabilmente la sera in cui abbiamo composto questo pezzo ero particolarmente tamarro. Esatto. E allora è andata così. Sì, ma doveva essere così. Dicevamo, il microfono spento, può essere un jam session continuo questo pezzo qua, un po' come l'altro. Avete la caratteristica di fare dei pezzi che dal vivo possono continuare senza nessun problema. Però chiaramente per motivi di tempo si devono tagliare, si devono diminuire, si devono un po' ammortizzare. Però musicalmente potrebbe essere un pezzo che non ha fine. Perché intanto rumorista, abbastanza schizofrenico nel senso positivo del termine, come ha detto, e sperimentale, come ha detto Flavio. Certo, anche perché vedendoli di persona così non mai si potrebbe immaginare che dai loro volti così tranquilli e soavi possa scatenarsi una musicalità così contorta e forte, diciamo, anche nella sperimentazione. Certo, e poi Francesco aggredisce il pezzo, questo l'hai proprio aggredito nel cantato questo pezzo. Sì, era un testo che andava aggredito perché... aggredisce, diciamo così, nel suo intento una situazione che ovviamente a me e a noi dava un sacco fastidio. Bene. Allora, noi stiamo parlando con i Karenina, però per saperne di più di Karenina esiste anche un sito internet che vi vede protagonisti. Beh, abbiamo qua colui che ha creato il sito internet, quindi, chi meglio di Giuseppe. Sono emozionato. Sì, ti vedo. Sì, si vede. Sì, tremi. No, beh, il sito è www.karenina.it. Sì. Invitiamo tutti a visitarlo perché, a parte che è bellissimo, perché è stato fatto con dei ragazzi che davvero fanno quello per mestiere, lo fanno veramente bene. Questo anche per dire che, appunto, tornando, divago un attimo, però è una cosa sensata e quindi ne dico poche, una almeno la centro. No, a parte gli scherzi. Quando anche tu prima parlavi del packaging, dell'album e tutto quanto, noi vogliamo non fare solo musica, noi vogliamo che ci siano varie forme d'arte e in questo caso il creare un sito internet è comunque un'arte, perché l'informatica può sembrare quadrata, ma la progettazione delle soluzioni deve essere comunque fatta in modo artistico, altrimenti non si evolve. E noi vogliamo, e abbiamo anche per questo album coinvolto molte altre persone che potessero mettere la loro arte a servizio non tanto nostro ma del progetto, quindi noi la mettiamo con le idee, con la musica, Paola l'ha messa aiutandoci ad enfatizzare alcune note caratteristiche dei nostri pezzi, Serena, la bravissima Serena l'ha messa nel packaging e i ragazzi di Glue Lab e di Polar Coffee l'hanno messa nel sito internet e in tutto quanto riguarda il lato informatico, social, web. La cosa interessante, soprattutto piccolo aneddotino caratteristico però che fa capire quanto vogliamo lavorare in sinergia con le persone, la cosa interessante è che abbiamo detto a tutte queste persone, ad esempio, qual era il titolo dell'album, non abbiamo fatto sentire loro i pezzi, non abbiamo detto nulla di noi e loro hanno partorito, perché è stato proprio un parto, delle grafiche totalmente affini al nostro modo di pensare e di vedere queste cose. Questo per noi è fondamentale, la sinergia che si crea senza bisogno di parlare troppo e dare troppe spiegazioni. Così è stato per l'artwork, così è per il sito, ripeto, www.carina.it, e per tutto quanto ci circonda. Vogliamo dare un senso a tutto e chiudere il cerchio, non lasciando che ci siano parole sopra un vestito musicale e stampate, incise su un album che poi rimane in un cassetto. L'altra cosa, all'interno del vostro sito c'è anche la possibilità di acquistare il futuro che ricordavo tramite gli store online, quindi Karenina, mi raccomando, scritto col K.it, per accedere a questo sito, per vedere anche un po' quella che è la copertina, diciamo l'anteprima della copertina, che vede protagonista un computer vecchio modello, forse non sono neanche più in circolazione, o se li vedono gli danno la multa in questo caso. Sì, no, sì. Con un computer con tanto di ruote in formato nastri Revox. No? Il corpo sulla cassetta, la musicassetta. Ah, sulla musicassetta VHS, sì. È stato bello trovare questi elementi vintage. Comunque ci appartenevano, perché anche con Triste Colore Rosa quel tipo di mondo ci piaceva. C'era un divano, mi ricordo. C'era un divano, c'era una cornice che abbiamo nel furgoncino, sì, tuttora. Sì, sì. Cioè, siamo molto legati a queste cose, che poteva essere qualcosa che ricordavamo, però assemblate in quel modo futuristico, adagiate su delle nuvole, davano davvero l'idea anche grafica e visuale di quello che per noi era ed è il futuro che ricordavo. E da qui il bellissimo lavoro e tutto quanto relativo all'album e quello che ho detto prima. Bene, quindi invitiamo gli ascoltatori ad andare a vedere anche questo sito e naturalmente tramite questa trasmissione speriamo di far conoscere ancora meglio la vostra dimensione musicale. Allora, ancora spazio per i vostri strumenti, un altro pezzo live, che in questo caso come Easter Greenwood. Ce l'ascoltiamo, poi torniamo a commentarla insieme e cercheremo di capire anche chi era questa Easter Greenwood. I Karenina. Vado via, lo faccio subito, non torno indietro, non ne dubito, ad ogni passo sfilo un abito, perché a vestirmi rimanga soltanto Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ed eccoci qui ancora insieme per ascoltare le musiche proposte dai Karenina in questa serata. Allora, una canzone dedicata a questa Esther Greenwood. Esther Greenwood, che è la protagonista di un romanzo, dell'unico romanzo scritto da Sylvia Plath, che si intitola La campana di vetro. La narrazione riguarda sempre una situazione americana mista con l'Unione Sovietica di quel tempo, dove la Esther Greenwood era stata assunta da una rivista, da un mensile, proprio per commentare dei dolorosi momenti che vedeva protagonisti due ritenute spie russe, no, in quel momento, una certa Ethel e non mi ricordo l'altro personaggio. Comunque, come mai date sempre questi riferimenti importanti di letteratura e anche forse non proprio i protagonisti di best seller di questi momenti? Beh, perché la letteratura è fonte di grossa fascinazione, quindi il passo tra la fascinazione e l'ispirazione è molto breve. C'era questa immagine all'interno di questo romanzo di Esther Greenwood, che è una persona che riflette moltissimo quello che è l'immagine dell'autrice del libro di Sylvia Plath. È una sorta di romanzo autobiografico, anche messo sotto forma di un romanzo non autobiografico. C'è questa immagine di Esther Greenwood che sale sul tetto di un grattacielo di New York e cammina a pochissimi passi dal baratro, quindi ed è un'immagine di lei non si cura del pericolo che incombe a pochissimi centimetri da lei, ma si sente più che altro liberato, quasi si spoglia dei propri vestiti per sentirsi più leggera, ed è un'immagine di, secondo me, di grandissima letteratura e di grandissima ispirazione, di questa città che le precipita a un passo e nonostante ciò un desiderio di liberazione più che di oppressione. È forse uno dei momenti più chiari di un romanzo piuttosto triste, piuttosto scuro, anche viste le vicende personali dell'autrice, che rispecchiano un po' quelle della protagonista del romanzo. È un pezzo di letteratura che ha ispirato tantissimo e si prestava benissimo ad essere cristallizzato in una composizione musicale. Quindi, oltre a proposte musicali e anche questa sera proposte letterarie, ricordiamo ancora una volta La campana di vetro di Sylvia Plath, che racconta questa storia triste però con grande naturalezza, oserei dire. In tutti i migliori negozi di libri. Anche dal punto di vista musicale c'è dolore e ironia, un critico ha scritto giustamente dolore e ironia perché alcuni momenti sono ironici, e dolore perché l'interpretazione non è abbastanza sofferta in alcuni momenti, anche se dà quella chiave di pop, tra virgolette, possiamo dire questo. Di pop sperimentale. Pop sperimentale, sempre. Sì, quello è praticamente la caratteristica del pezzo, ed è piaciuto, a me è piaciuto personalmente parecchio, ed è piaciuto molto anche a chi è più grande di me dal punto di vista critico, ne hanno giudicato molto bene immediatamente, perché hanno colto immediatamente quello che voi volevate dire. Anche musicalmente. Poi il senso della comunicazione, esatto, che si colga quello che si vuole dire, quindi è fantastico. Allora, i Karenina noi ce li abbiamo qui in studio, però vorremmo sapere da loro quelle che sono le prossime programmazioni live, diciamo, che vi vede come protagonisti nelle varie serate, e soprattutto molto più rock che non in questa sera, dove siete molto molto delicati con la vostra strumentazione. Francesco. Allora, noi abbiamo iniziato il nostro tour di presentazione di questo disco a febbraio. Abbiamo per adesso fatto qualche data, abbiamo toccato la Toscana, il Lazio, l'Emilia Romagna. Adesso il mese di maggio l'abbiamo dedicato per alcune interviste in radio, e riprenderemo con i live da metà giugno. Il 16 giugno a Bergamo al Lazzaretto, prima di Marta sui tubi, quindi fate da apertura. Esatto. Poi il 30 giugno a Pioltello, provincia di Milano, poi il 2 luglio sempre a Bergamo e il 7 luglio a Foresto Sparso al Forest Summer Fest. La formazione è quella effettiva, ci sono qualcuno che vi dà una mano dal vivo o siete solo voi cinque, basta? Allora c'è il nostro fonico, Alessandro Gritti, con cui ci troviamo molto bene. Anche che il sesto, è il sesto personaggio. Esatto, 5 più 1. 5 più 1. E con il quale ci troviamo anche molto bene dal punto di vista umano, perché è importante anche questo durante il tour. E quindi il fonico ci accompagna, è fondamentale. Esatto, sì, perché conosce i nostri suoni e le nostre esigenze. Ti accompagna sempre durante la tournée, praticamente. Esatto. Quando può, insomma, quando è possibile. Comunque vorrei dire che all'interno del sito internet, ricordato prima, karenina.it, ci sarà anche la possibilità di vedere le date che pian pianino si inseriranno da qui a nei prossimi giorni. Credevo mi dicessi che c'era un bug. mi stavo già preoccupando. Non lo sto controllando in questo momento. C'è tutto, ci sono tutte. Cioè è una forma di blog, quindi ci sono tutti gli articoli e recensioni dove si può acquistare l'album e tutte le date, quindi è la nostra formula di comunicazione primaria insieme a Facebook e gli altri vari social network a corredo. Basta solo cercare Karenina e tutte le informazioni poi compaiono magicamente grazie al magico mondo di Google. Vabbè, abbiamo fatto anche un po' di pubblicità gratuita per par condicio. Dovremmo cercate ricordare Karenina, lasciate perdere Tolstoi, cercate. Sì, anche perché molte volte arriva fuori Anna Karenina con la sua storia, invece Karenina, la band in questo caso sono loro e sono venuti qui a Blu Radio Veneto per farsi conoscere meglio il futuro che ricordavo. Adesso piccolo spazio dedicato a una canzone da disco e poi torniamo qui in diretta. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. Abbiamo ascoltato la canzone fino agli ultimi passi sulla neve, si può dire così. Sono i Karenina, li abbiamo ascoltati con Tutto il freddo, così si intitola questa canzone ascoltata da disco, mentre ricordiamo che i Karenina sono anche qui nella versione live, quindi muniti di chitarra, piano, basso e percussioni, nonché voci, per farci ascoltare anche in una maniera un po' diversa quella che è la loro produzione musicale, tra altre cose disponibile anche all'acquisto tramite gli store in internet. Quindi cercate karenina.it e poi andate a vedervi anche, perché no, il video di cui abbiamo parlato prima. Si intitola Colore ed ha proprio una nota di colore importante per la presentazione di questo gruppo Karenina, per l'appunto. Questo è il pezzo che abbiamo scelto io e Alberto Pisco. Alberto Pisco è il nostro direttore artistico, che salutiamo, perché è un pezzo, una ballata, un po' particolare, però che ha dei momenti di forti, momenti quieti, morbidi, delicati. E metti in cioè dicevo ai ragazzi mentre il pezzo andava, microfono spento, che l'ascoltatore deve immedesimarsi, deve ascoltare momento per momento, perché cambia durante il pezzo, e quella è la positività di un pezzo simile, anche degli altri. Specialmente questo che abbiamo scelto come pezzo lancio nel nostro piccolo per questo disco. Sì, poi tra le altre cose, all'interno delle note, dei testi, c'è anche una parte che non è cantata, è proprio una parte, si può dire, recitata, dove c'è un lui e c'è una lei che commentano la situazione. Allora, mi fa molto piacere che sia stata notata questa cosa, perché vuol dire che avete veramente letto bene i testi. È una cosa curiosa, nel senso, quelli erano degli appunti che avevo messo a margine del testo della canzone. Non dovevano essere, diciamo così, pubblicati. Beppe mi ha chiesto i testi per creare l'artwork del disco. Io gli ho mandato i file dimenticandomi completamente che ci fossero queste note a margine. Mi ritrovo queste note a margine sotto il testo sul disco e dico, ma Beppe, guarda che queste cose qua non dovevano uscire, nel senso erano proprio degli appunti che mi servivano per creare il mood del pezzo. E Beppe ti ha detto, è già stato pubblicato, va bene così. È già stato stampato, è vero? No, la spiegazione che... No, stavolta dai, seriamente, sono un casino. No, è stato tutto voluto, tutte le note piccole che ci sono sotto i testi, e se ci fate caso anche il titolo di una canzone che tra parentesi ha il titolo vero e proprio e non... il substring, la sottoparte come c'è nel retro, è voluto per far capire, secondo me, anche dal punto di vista appunto della lettura, che lavoro c'è stato in questo caso da parte di Francesco, perché dobbiamo ricordarlo, onori e oneri, i testi sono suoi. Era voluto per far capire appunto quello che stava dietro alla creazione di un costrutto musicale, sia testo che strumenti, e quindi non è stato uno scherzo, insomma, era stata una decisione presa, solo che se gliel'avessi detto prima mi avrebbe implorato di non mettere queste note a margine e tutto quanto. L'ho detto dopo, volutamente. Vabbè, giusto. La scelta è stata, cioè, nel senso, si potevano togliere, effettivamente sono uscite per caso, ma poi è stata scelta quella di tenerli. Però ecco, l'aneddoto rimane, però effettivamente la scelta di tenerli è stata nostra, insomma. Bene, perfetto. Allora vediamo se sono cambiati i gusti musicali da Karenina, che erano prima la crisalide di triste colore rosa, come si diceva. Dovendo scegliere fra tre dischi, tre artisti che vi hanno un po' plasmato musicalmente anche nell'età, diciamo, adolescenziale, prima di diventare musicisti di questo livello, quindi come Triste Colore Rosa oppure come attuali Karenina, quali sono i protagonisti musicali della vostra performance musicale, ovvero qualche artista abbinato agli album che vi portereste con voi dappertutto, oltre a un disco di Karenina naturalmente? Penso che ognuno abbia i propri. Sì. Sì, siamo davvero molto differenti come allora, a livello musicale. Allora sentiamo, partiamo allora da te, Ottavia, sentiamo un po' quelle che sono le... bastano tre artisti. Tre artisti? Abbinati a un disco eventualmente, sì. Beh, Jeff Buckley, ha l'unico disco che ci è pervenuto, Grace. Bjork con Medulla, un album interamente creato da voci. E poi io vado sulla classica perché amo il pianoforte, quindi direi Le Images di Debussy. Però, cioè, quello è proprio mio personale. Sì. Collegati ai Karenina ci sarebbero tanti altri riferimenti. Cioè, anche questi qua sono un po' i mondi che... I mondi che vivi tu in, in particolare. Esatto. Debussy mi ha colpito da parecchio, quello... che non si sente nominare in giro, però diciamo che nel cuore di ogni musicista classico c'è spazio anche per lui in questo caso. Sì, diciamo che comunque tantissimo per me viene attinto dalla classica tuttora. Certe sonorità, certe ricchezze armoniche non le ha inventate nessuno, nel senso ovvio. Certo. Sempre difficile poi fare dei paragoni o dei parallelismi, però c'è sempre tanto da imparare anche dai grandi del passato e da dei pianisti nel mio caso, perché quindi l'impressionismo, okay. L'impressionismo, sì. Bene, allora Francesco. Beh, in adolescenza sicuramente Radiohead e Jeff Buckley anch'io hanno diciamo così cambiato la mia vita, come si dice. In età un po' più tarda sicuramente i Beatles. Ah, come mai i Beatles, che praticamente i Radiohead è un riferimento ai Beatles al 100% dall'inizio? I Radiohead erano miei contemporanei, quindi era normale che io vivessi la loro storia in parallelo con la mia. Certo. Perché ho vissuto quel momento, insomma, per me. Ma che periodo di Radiohead? Primo. Li ho scoperti con OK Computer. Okay. Li ho adorati con tutti gli altri dischi. E i Beatles invece li ho scoperti più tardi, molto più tardi. Quando pensavo di non poter più scoprire veramente musica che mi potesse emozionare tantissimo, poi non avevo ascoltato la discografia dei Beatles che quindi c'erano da parecchio tempo presenti, però beh, c'è un momento per tutto, no? Quindi si nasce ascoltando la musica italiana, poi si va verso le sonorità inglesi o americane, oppure si fa al contrario, come ho fatto io, conoscendo prima la realtà inglese e poi buttandomi a pesce su quella italiana. Beh sì, ecco, sì. Anche la realtà italiana ovviamente ha avuto un fortissimo influenza sulla mia, diciamo così, formazione di ascoltatore. Ho vissuto da adolescente il periodo indie italiano dei Marlene Kunz, degli After Hours, insomma, anche quello è stato per me una rivelazione. Quindi diciamo queste tre cose sicuramente mi hanno plasmato. Cosa ne pensi di Padania, che è uscito da qualche giorno, di After Hours? Ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto, sì. Beh, gli After Hours stanno invecchiando molto bene, secondo me. Padania, la canzone, è veramente un bellissimo pezzo, cioè io ammiro tantissimo chi sa scrivere delle belle canzoni. Manuel Agnelli è sicuramente uno dei migliori in Italia. Chiaro. Bene, allora tocca a Giuseppe. No, beh, io faccio un po' fatica a dirne tre. Sì, perché, dinne quattro, dai. No, anche a dirne quattro. No, nel senso, ti spiego il perché. Sì. È molto semplice. Io cerco di... quando ascolto un disco, lo ascolto in cuffia e cerco, come avete fatto noi, grazie, col nostro album, di cogliere tutte le sfumature e le emozioni che mi può dare. Però parto da un concetto, che secondo me la musica, se fatta in un certo modo, è bella tutta, e anche di ciò che è meno bello, se è stato inciso ed è lì e io ce l'ho, è perché qualcosa di positivo me lo dà. E quindi cerco di prendere quelle piccole o grandi cose che per me sono positive, che mi emozionano, che mi fanno crescere, che dal punto di vista tecnico sono delle genialità, parlo delle produzioni americane piuttosto che, e cerco poi di farle mie, plasmarle e metterle nella mia parte che metto nella nostra musica. Quindi potrei dire che ciò che mi piace è la musica. No, non, cioè, poi ovvio, io la mia adolescenza l'ho vissuta con, con Francesco, quindi gli ascolti sono più o meno simili per quanto riguarda l'indie italiano. Poi vabbè, io nasco chitarrista e quindi come tutti i chitarristi da piccoli vuoi fare gli assoli di Hendrix piuttosto che di Stevie Ray Vaughan e di chi che sia, e quindi ascolti quel mondo. Poi diventi adolescente, ti senti molto Tamarro, ascolti i Korn e scopri però la maestosità dal punto di vista delle produzioni dei Tool e di quei gruppi. Però anche adesso la sparo, però per farvi capire, spara. Pupo e Cristina D'Avena riescono a cogliere nel segno in certi ambiti. Sì, sì, certi cui, ambiti, per, giusto per ricordarli. Cui, no, lo voglio dire. Il problema, cioè, la cosa è che se noi ci ricordiamo ad esempio le canzoni di Pupo perché la gente le ascolta, sì, vuol dire che dal punto di vista della comunicazione Pupo può insegnarci qualcosa. Forse non ho capito cosa mi vuole insegnare, però so che se riesco, se mi rimane una sua canzone, magari qualcosa. Mi piace scoprirlo, quindi potrebbe essere fonte di ispirazione anche Pupo e non solo i grandi del rock. Certo, certo. Quindi ricordiamo quindi con piacere anche Gelato al cioccolato, dolce, sì, un po' salato. Che è stata scritta però dal grandissimo Cristiano, sì, Malgioglio. Eh sì, certo, sì, non le diamo nulla a Malgioglio. Come vedi sono preparatissimo. Sì. E so anche l'occasione, ma è meglio non dirla per radio. Ecco, non importa. Non importa. Al di là degli scherzi, a me piace tutta la musica perché ormai la vedo come qualcosa che posso fare mio in ogni ambito, a seconda delle sfumature che poi mi trasferisce, quindi tutta. Bene, adesso Francesco, il bassista. Sì, allora, più o meno anch'io sono partito nell'adolescenza ascoltando grunge rock, per poi mutare i miei ascolti negli anni e cercando di ampliarli. Ultimamente ascolto molta musica più che altro del nord Europa, però ascolto anche generi diversi, comunque dalla classica. Ho avuto il mio periodo metal intorno ai 16-17 anni, comunque musiche di diverso tipo. Vogliamo ricordare anche il tuo basso con le corna, no? In quel periodo avevo un basso con le punte, veramente, veramente. Uno shock per noi. Veramente metal. Tipo Kiss. Sì, qualcosa del genere. La cosa bella è che si truccava come i Kiss in sala prove, e quindi era casino. Sì, bene. Provavo anche a allungare la lingua. Sì, come lui, come il leader dei Kiss. Sì. Tacco 15, non so, sì, appunto. Queste cose qua. No, Gene Simmons le portava i tacchi molto alti, non solo lui, però. Lo ricordo, con la lingua che gli arrivava al petto, con i tacchi altissimi. Vabbè, aveva una certa... preferiamo ricordarlo così. Dai. Sì. Beh, lo ricordo bene ancora, perché in America è ancora un idolo, nonostante tutto, le sue tournée. E i suoi concerti di fare e come. Si fanno vedere sempre più spesso senza trucco, forse sì, hanno problemi con la pelle. A una certa età il cerone non ci sta. Bene, allora abbiamo ascoltato quelli che sono i gusti musicali di Karenina. Ora ascoltiamo un altro pezzo da disco, così prendiamo un po' di fiato tutti e poi torniamo a parlare di musica assieme a loro. Rockwave, l'onda del rock. Thank you. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua ancora all'interno di Rock Wave, l'onda del rock, programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Siamo assieme ai Karenina e abbiamo ascoltato un altro pezzo dal loro lavoro che si intitola Il futuro che ricordavo, si intitola Gli anni del piombo. Allora, ascoltiamo da Francesco, come mai Gli anni del piombo? Da cosa è nata questa canzone? Allora, è un pezzo che parla di un amore un po' tossico negli anni 70, e quindi il titolo è un doppio gioco di parole che fa riferimento quindi agli anni di piombo, che era quel periodo, però anche gli anni del piombo, perché il piombo era uno dei materiali che si usava per tagliare l'eroina, quindi gli anni di piombo o gli anni del piombo. Non ha un significato particolare questa canzone, racconta una storia, una storia un po' vintage, diciamo così, con una morale finale che non dobbiamo mai fidarci della verità, forse dovremmo fidarci di quello che non vediamo o credere a quello che non vediamo, come diciamo in Le macchine da scrivere. E musicalmente sì, è forte, però non è fortissimo, cioè ci sono momenti di melodia, momenti di rock più corposo, e ritorna alla melodia, sempre un andirivieni, voluto un andirivieni. Sì, con l'aggiunta di uno strumento, diciamo, per noi un po' alieno, che è il buzuki. Uno strumento che forse più di solito si accosta a De Andrea, a Mauro Pagani, ad album come Creso de Ma. Volevamo usarlo per fare un pezzo più pop rock, insomma. E la sperimentazione di questo brano va proprio in questa direzione, cioè soprattutto sull'uso di uno strumento in un contesto nel quale forse non l'abbiamo mai sentito, ecco. Sì, una esperienza, cioè tu parlavi di Creso de Mar, che è l'album più importante dal punto di vista di sperimentazione da parte di De André, e giustamente tu hai sperimentato, però non sperimentando al massimo, dando quella colorazione con questo strumento. Esatto. Rimane comunque un brano pop. Sì, certamente, certo. A proposito di colorazione, allora abbiamo sempre parlato di Karenina, ma ci siamo spostati già nella parte iniziale della trasmissione a parlare di Triste Colore Rosa, e con questa evoluzione che c'è stata così importante in Karenina. Ma vogliamo un po' rivivere quelli che erano i momenti di Triste Colore Rosa con quell'album che aveva come copertina, la ricordo ancora come se fosse qui davanti a me, un divano, e con la possibilità di intercambiare dei fogli per far vedere i personaggi del vostro mondo, ovvero voi, no? Quindi è sempre in questo divano in cui si costruiva la vostra identità di Triste Colore Rosa. L'album si intitola Scomparire in 11 mosse, e poi siete scomparsi effettivamente, come Triste, Triste mantenuto fede Colore Rosa, ecco, giusto, ce l'avevate già detto in questo caso. Ancora prima di vendere dischi come Triste Colore Rosa, sapevate già che sareste andati scomparsi. Quindi vediamo di risentire una di queste 11 mosse. Quindi abbiamo scelto prima, mentre andava il disco, di ascoltare all'unisono, abbiamo detto la stessa parola, ovvero effimera. Schiena dritta in piedi, ad un passo il cielo, oltre il confine metà fisico di un vetro che non fa trasparire quello che c'è al di là. Così vedo il Leni, è così che rimarrà. Così vedo il Leni, è così che rimarrà. Apri la finestra, cosa aspetti? Aprila mentre chiudo gli occhi, solo per fotografarti, e non c'è paura, e non sei più effimera, così vedo il Lani, è così che rimarrà, così vedo il Lani, è così che rimarrà. Bellissimo, entusiasmante anche la parte riservata a questo tornare indietro nel tempo e ascoltare appunto questa canzone di triste colore rosa, effimera, tratta da 11 scomparire in 11 semplici mosse. È ancora in circolazione questo disco? Sì, lo si può richiedere a noi direttamente, noi ai nostri concerti, di solito comunque le persone che lo vogliono lo chiedono e noi glielo procuriamo. Quindi all'interno di quella che è la programmazione musicale Karenina c'è spazio anche per il passato? Certo, certamente. Scomparire in 11 semplici mosse non è certamente un album che rinneghiamo, anzi ne suoniamo ancora moltissimi pezzi dal vivo, siamo sempre noi, assolutamente. E ringraziamo anche Elena Perletti, grazie a lei stasera siete qua, perché è stato proprio il nostro gancio effettivo, e anche salutiamo la Nicoletta che segue sempre il programma. In ogni caso, Triste Colore Rosa era un disco che a noi è piaciuto moltissimo quando ce l'ha inviata l'Elena, noi l'abbiamo sentito con Alberto e anche con Flavio, ci è piaciuto immediatamente, e come ci è piaciuto immediatamente questo nuovo. Quindi sono passati, il passato il nome, però l'importanza della musica rimane, il progetto rimane e la voglia di sperimentare rimane, quello è importante secondo me, fondamentale per il vostro gruppo, e cercare delle sonorità anche ricercate vuol dire sperimentare, vuol dire andare avanti. Noi vi ringraziamo, perché sentire queste parole è sempre, bellissimo, e veramente, cioè, anche grazie a queste parole che poi noi andiamo avanti, continuiamo nel lavoro che stiamo facendo e cerchiamo la sperimentazione, ma anche il buon ascolto, ecco, sì. L'apprezzamento soprattutto a persone come voi che veramente si sente che ascoltano i dischi è fondamentale, grazie. Bene, quasi quasi mi ascolterei un'altra canzone di Triste Colore Rosa, ecco, sì. No, vabbè, comunque vabbè, ne discuteremo dopo, intanto noi continuiamo anche con l'ascolto del disco di Karenina, così per arrivare alla fine alle ore 24 e dire sì, abbiamo proprio conosciuto il mondo Karenina al 100%. E allora adesso sistemiamo la canzone che si intitola Oltre tutto questo e poi torniamo in diretta a commentarla insieme. Rockway, l'onda del rock. Buttare via il presente ormai è un lavoro. Lo facciamo solamente per costruirci un futuro uguale, identico al passato di chi ha calpestato. Solo un giorno ancora. te. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Oltre tutto questo, il titolo della canzone che ci siamo ascoltati, I Karenina, in diretta su Blu Radio Veneto. Questa era la canzone del Il Futuro che ricordavo, così è il titolo del loro disco. E adesso abbiamo convinto io e Maurizio, con le buone naturalmente, I Karenina, sì, con le cattive. A ritrasformarsi in Triste Colore Rosa, che a noi piacevano molto. E sì, ci sono rimaste impresse alcune loro canzoni che comunque hanno confermato nei concerti a nome Karenina, riprendono ancora in mano e sempre molto volentieri per farli ascoltare agli ascoltatori che naturalmente amavano anche la loro precedente, diciamo, il loro precedente progetto. E quindi perché non tornare a parlare di queste come 11 semplici mosse per scomparire, così era il titolo, no? E quindi erano delle mosse che, non so, vogliamo un attimino ricapitolare da cosa erano formate queste mosse per scomparire, Francesco? Erano le canzoni, le 11 canzoni che componevano il disco erano quelle che noi abbiamo definito 11 semplici mosse per scomparire. Scomparire voleva dire immergersi in un mondo musicale nostro, molto intimo. Abbiamo parlato prima dei nostri riferimenti al salotto, al divano, insomma. C'era tutto questo riferimento molto intimo nel quale ci si poteva immergere, si poteva scomparire all'interno della fruizione musicale. Quindi le 11 mosse erano proprio le 11 canzoni del nostro disco. E tra le altre cose, all'interno di queste 11 mosse c'era anche Madame Karenina, che forse anche vi piaceva così tanto con il nostro nuovo incarnazione, vi piaceva così, esatto, tanto, che forse è stata il passaggio veloce al chiamarvi così. Allora vediamo cosa ci proponete ancora da questo album come Triste Color Rosa. Facciamo un nostro cavallo di battaglia anche nei nostri ultimi concerti, che è Io di fronte a me. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E così abbiamo ripercorso anche il passato dei Karenina come triste colore rosa, appunto con la presentazione da prima di Effimera e poi ancora di questa Io e di fronte me. Ci sono i puntini di mezzo, no? Per indicare, per affermare chi ha una persona di fronte, innanzitutto se stesso e poi naturalmente tutto il mondo che lo circonda. Allora, che dire Maurizio, noi dobbiamo ringraziare veramente di cuore i Karenina che sono stati qui con noi per presentarci quella che è la loro musica del futuro che ricordavo, così si intitola l'album, disponibile anche per l'acquisto via internet, quindi andando al sito www.karenina.it e naturalmente Karenina scritto con la K, c'è la possibilità di acquistare il disco e poi naturalmente nelle tappe dei tour dei Karenina c'è anche la possibilità di entrare in possesso dell'album Triste Colore Rosa, che lo ricordo ancora con un'ottima copertina intercambiabile a seconda del personaggio dei Karenina o dei Triste Colore Rosa, in quel caso che era più simpatico diciamo al pubblico, per cui c'è Francesco, mi sembra stai leggendo un libro in quella copertina, poi invece Giuseppe sta giocando con una palla magica, si può dire così, c'è chi si sta riposando, chi sta chi ozia, ecco qua Francesco Oziante, poi c'è ancora Ottavia, tu cosa stavi facendo? Non lo so. Te lo dico io. Stavi guardando per terra qualcosa. Esatto, stavo toccando il tappeto. Mi piaceva. Sì, toccare il tappeto. Stavi toccando il frufru del tappeto, esatto, in questo caso. No? Poi, esatto. E invece, per ultimo, ma lo salutiamo a distanza, Enrico, che in quel caso stava ascoltando la radio, non seduto sul divano, ma seduto sul tappeto. Anche lui. Benissimo, quindi Triste Colore Rosa, Karenina, l'attuale formazione, che noi ringraziamo per essere stati con noi all'interno della programmazione musicale di Blu Radio Veneto e naturalmente ancora vi vogliamo ancora ospiti qui un'altra volta con un altro bel prodotto come quello che ci avete portato questa sera. Dubbiamente un'ultima domanda volevo chiedervi è questa, avete difficoltà, avete parlato di date, avete difficoltà a suonare live dal vivo cose vostre originali oppure siete riusciti a superare questa difficoltà e andare avanti senza problemi? Capita. Allora, per me non è difficile suonare la propria musica, perché la propria musica si ha sempre voglia di suonarla. Bisogna avere le occasioni, abbiamo persone che ci danno queste opportunità, ringrazio... Diamo una mano praticamente. Sì, più persone ci danno una mano, quindi grazie a queste persone e grazie alle persone che ci cercano perché sentono che la musica vale. Quindi c'è ancora gente che vuole sentire musica live originale. Sì, assolutamente. E questo è importante. Assolutamente. È fondamentale perché adesso, questi ultimi tempi che corrono, anche le cover sono in crisi, anche quelli fanno cover, quindi è poco da fare. Assolutamente sì, anche perché i locali non sanno più cosa scegliere, esatto, ultimamente, perché le cover sono troppe e le musiche originali si ha paura di proporle in un certo senso, e per cui bisognerebbe saper fare un po' dell'uno un po' dell'altro, oppure saper fare le cover, poi piazzarci dentro furbescamente alcune canzoni proprie in maniera che la gente poi arrivi, penso sia un trucco che fanno molti gruppi per farsi conoscere in questo caso. Voi, così domanda, siete partiti anche come cover band? No. Direttamente a proporre la vostra musica. Almeno. No. siamo partiti proprio da nostri pezzi inediti, quindi non abbiamo mai suonato, tranne una cover dei Beatles, di Prudence, che è stato una cover, per modo di dire, cioè un pezzo bellissimo. Esatto, insomma. Sì, è piegato proprio un nostro l'omaggio con le nostre corde, insomma. Però no. Quindi siete stati decisamente coraggiosi a partire con le cose vostre praticamente. Sì, direi di sì. E il coraggio fa importanza e siete riusciti a approdare prima è Triste Colorosa e adesso è Karenina. Quindi. Non ci è mai neanche interessato sinceramente a proporre un progetto cover, quindi non ci abbiamo mai neanche pensato. Ma molto, molto, molto spesso lo fanno per cercare, come ha detto giustamente Flavio, poi di introdurre i pezzi loro, i pezzi originali. Ma io... Se voglio sentire la musica di un gruppo, voglio sentire la sua di musica, nel senso, quello può essere un escamotage, però certo, sì, chiaro, chiaro. A me personalmente non piace molto, poi certo c'è chi lo adotta, insomma. Certo, soprattutto per la voglia di suonare, poi, no? Esatto. Per creare, diciamo, per creare musica, diciamo così. Vabbè, allora, noi salutiamo gli ascoltatori, Maurizio, perché è quasi la mezzanotte e dobbiamo andare a letto, no? Sì. Naturalmente sempre con la musica in sottofondo, quella di Blu Radio Veneto, e quindi salutiamo anche i Karenina, auguriamo un buon rientro nel vostro territorio lombardo, l'abbiamo dimenticato all'inizio di trasmissione, però hanno fatto molta strada per venire da noi e per questo li ringraziamo. E allora, noi lasciamo i microfoni aperti ancora per voi, Karenina, perché so che dovete proporci un'altra ultima canzone live. In questo caso la commentiamo prima per poi passare ai saluti. Si intitola Sofia ci sopra e del pezzo un po' più leggero dell'album. Per noi che abbiamo scrivere magari un testo, comunque una canzone molto leggera, è un modo per sperimentare, perché molto semplicemente non l'avevamo mai fatto e volevamo confrontarci anche su questa cosa che magari poteva sembrare un po' aliena rispetto alle nostre produzioni abituali. Poi suona via anche questa praticamente. Esatto, per noi è proprio sperimentazione anche questa, nel senso, certo. È una cosa che non avevamo mai fatto. E con questa ringraziamo tantissimo ancora voi, perché se ci inviterete ancora verremo volentierissimo, come al solito. Assolutamente sì, anzi anche a loro facciamo le chiavi, no? Sì, esatto. Maniera, quando volete entrate, noi siamo qui, alzate i microfoni e proponete la vostra musica. Allora, ringraziamo Francesco, ringraziamo Giuseppe, ringraziamo Ottavia, ringraziamo Francesco e ancora a distanza Enrico, che comunque abbiamo ascoltato all'interno della vostra produzione. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è tutto, quindi buona serata, buonanotte e vi lasciamo con i Karenina. Grazie ancora ragazzi. Grazie a voi. Se ti senti giù, lei arriva subito, fa il suo nido e poi non te ne libererai mai, non te ne libererai mai. Per cacciarla via c'è un rimedio splendido, soffiaci sopra, in un attimo sparirà, vedrai, in un attimo sparirà. Se la paura non se ne va, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Radio Veneto.